nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che parla di donne, di lavoro, di problemi veri, finti, ce ne facciamo tanti, lo sapete, ogni tanto ce li creiamo perché cerchiamo di fare mille cose contemporaneamente ed è su questo che Nessuna è Perfetta si batte già dal titolo per tranquillizzare noi tutte e dire che il multitasking è una fregatura e non tutte e non tutti siamo obbligati a fare mille cose contemporaneamente. E proprio perché, come dice il titolo della nostra trasmissione, Nessuna è Perfetta, si commettono tanti errori ed è normale che sia così, oggi vogliamo un po' riflettere su come qualche errore si può evitare, di quelli strategici, di quelli che possano cambiare, no, la nostra vita. Per esempio, quando cerchiamo un nuovo posto di lavoro. Sapete quanto tempo serve a un headhunter o a un manager delle risorse umane per decidere se vuole assumere o no la persona che ha davanti? Vi dite mezz'ora? 20 minuti? No, 90 secondi. Solo 90 secondi decidono del fatto che avrete o non avrete quel posto di lavoro che volete. Questo almeno secondo una ricerca condotta dalla New York University. La prima impressione, infatti, si forma addirittura in meno di 10 secondi dall'inizio di un incontro. E a fare la differenza sono i dettagli. Non tenete le braccia incrociate quando vi presentate a qualcuno e state cercando di convincerlo ad assumervi. Non perdete il contatto visivo, guardatelo negli occhi. Non arrivate mai di corsa con l'ansia scusandovi. Non è il modo migliore per stabilire il primo contatto per ottenere un lavoro. E guai ad avere i capelli in disordine. Questo almeno è uno dei consigli dello studio della New York University. Poi certo, la banalità è che bisogna essere diretti e convincenti, ma certe cose sono banali, ma è meglio ricordarsele. Questo è uno dei temi di cui parleremo oggi con i nostri ospiti, ma è sicuramente l'argomento che proporremo al nostro agente provocatore di questa settimana. E quando parliamo di provocazioni, credo che questa settimana siamo proprio col nome giusto. Benvenuto, buona domenica a Massimo Giannini, giornalista, già vice direttore di Repubblica, scrittore, conduttore televisivo. Ogni martedì sera a Ballarò. Ogni martedì sera, Giannini? Posso dire ogni martedì sera? Ogni martedì sera, almeno fino al 5 di luglio, direi che lo puoi ancora dire. Poi dopo il 5 luglio non lo so che cosa succederà, perché ancora con la RAI non abbiamo fatto il punto della situazione. Però fino al 5 ci siamo. Questa domenica, Massimo, parliamo di atteggiamenti che spesso, dopo magari 20 anni di carriera, vengono messi a dura prova perché si cerca un nuovo lavoro. E spesso non ci si ricorda più nemmeno da dove si comincia con un colloquio di lavoro. Citavamo prima uno studio del New York University secondo il quale le risorse umane, i direttori delle risorse umane o anche i cacciatori di teste impiegano 90 secondi per capire o per decidere se quella persona si assume o no. Ci racconti il tuo primo colloquio di lavoro, come andò? Il vero colloquio di lavoro per me importante fu quello con Eugenio Scalfari quando fui assunto a Repubblica, quello sì. Quello è stato. Ma secondo te ha deciso in 90 secondi se ti assumeva o meno? Secondo me ha deciso abbastanza presto, ma per un caso veramente straordinario del destino, perché io avevo mandato qualche anno prima proprio a Eugenio Scalfari una lettera nella quale, rappresentandogli il mio sconfinato amore sia per la sua persona, perché mi sembrava un personaggio straordinario, carismatico, sia per il giornale che faceva, gli chiedevo: voglio fare il giornalista, un giorno mi piacerebbe moltissimo poter collaborare a Repubblica, mi dica lei cosa devo fare. Pensavo che non mi avrebbe mai risposto, mi fece rispondere invece dal mitico segretario di redazione Rolando Montesperelli, che mi disse: non prevediamo assunzioni, si rivolga alla Federazione della Stampa, che fanno ogni tanto le loro borse. Poi invece vi siete incontrati, ecco, e poi a distanza di anni io mi presentai al colloquio, avevo già parlato col capo della redazione economica che voleva, era lui mi proponeva per l'assunzione, quindi Scalfari sapeva già tutto, ma ovviamente non poteva ricordare questo precedente. Invece io mi presentai con la copia di quella lettera e lui lì se la ricordò, incredibilmente se la ricordò, e fu un momento per me veramente molto, cosa molto dice emozionante. Eugenio Scalfari della possibilità che tu debba lasciare Ballarò? Devo dirti la verità che non ci siamo mai parlati di questa eventualità, anche perché è ancora in divenire la situazione, quindi nessuna decisione è stata ancora presa. Non ho chiesto consigli in giro, anche perché soprattutto in questa fase vivo molto nel giorno per giorno, cioè non mi sono dato obiettivi se non quello di, se mai dovessi uscire dalla RAI alla fine di questa avventura, appunto andar via così come sono entrato, forte soltanto di quel poco tanto di professionalità, di qualità nel lavoro che ho messo in tutti questi anni, e con la dignità di chi esce appunto avendo ottenuto il rispetto sia della RAI stessa sia dei telespettatori. L'unica cosa che mi sta a cuore è quella. Ci arriverò non lo so. Sì, l'altro giorno è andato via anche Porro, che ha annunciato l'addio alla RAI dopo la chiusura di Virus. Vi siete parlati? Guarda, con Nicola ci siamo sentiti al telefono quando iniziarono a uscire le prime voci che riguardavano sia lui sia Ballarò, e insomma siamo buoni amici con Nicola, ci siamo scambiati la mutua solidarietà, eravamo in una fase nella quale per lui c'erano già certezze, perché il direttore della sua ex rete Rai 2 gli aveva già comunicato che Virus non sarebbe stato in palinsesto per l'anno successivo. Per me le cose erano ancora invece sospese, come lo sono tuttora, quindi ero stato soprattutto io a rappresentargli appunto la mia solidarietà, e lui me l'aveva fatta in anticipo per quello che sarebbe o potrebbe ancora accadere, non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo solo vivendo. In questa puntata, Massimo, noi cercheremo di dare dei consigli poi successivamente a chi ci scrive chiedendo come comportarsi quando bisogna riproporsi in un colloquio di lavoro, e sono tanti anni che magari uno non ne fa più perché è rimasto, metti, 20 anni nella stessa azienda. Tu che consigli daresti a chi magari a 50 anni torna a proporsi in un ad un cacciatore di teste o ad un direttore delle risorse umane? Ma guarda, io diciamo molto dipende dalla storia professionale o lavorativa che ciascuno di noi ha alle proprie spalle. Se c'è un consiglio da dare però è che di fronte ad una crisi che devo dire da questo punto di vista ha sconvolto completamente il mercato del lavoro innanzitutto, ma poi anche i nostri stessi comportamenti, il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro e quindi anche della vita, perché il lavoro è vita, il lavoro è quella cosa attraverso la quale un individuo diventa un cittadino, perché acquisisce una serie di diritti e la consapevolezza, un tempo si sarebbe detto marxianamente, di classe, no? Diciamo sì. Così. Allora, nel momento in cui tutto questo finisce perché le certezze che avevi crollano e magari a buon bisogno la tua azienda ti dà anche il ben servito e tu devi andare a cercarti un altro mercato, posto di lavoro, esatto, a reinventarti un futuro, io penso che la cosa fondamentale in queste situazioni sia una grande umiltà, nel senso che umiltà non vuol dire accettare qualunque condizione ti si offra, anche di tipo economico e retributivo, ma umiltà nel senso che dovendosi reinventare occorre essere anche elastici, no? Esatto, elastici e soprattutto liberi di testa, nel senso che se, come troppo spesso accade, questo è un po' un limite del nostro paese, ci si ricorda troppo di quello che si è stati e si immagina quindi che occorra mantenere un certo status, beh, allora ho paura che non si facciano molti passi avanti. Bisogna accettare il rischio, l'idea del rischio, perché rimettersi in gioco poi questo significa. E se non recuperiamo un pochino, adesso lo dico non soltanto a livello individuale, ma anche a livello di sistema, se non recuperiamo tutti un po' questa dimensione, questa idea del rischio, cosa che peraltro i giovani in buona parte hanno, già ovviamente. Fanno, perché se non è così non vanno da nessuna parte. Io non sono di quelli che dicono che i nostri ragazzi sono bamboccioni, come si era detto una volta, o troppo ciusi, come disse una volta la Elsa Fornero. Ecco, esatto, perché sono fin troppo disponibili. Però a mettersi questa in gioco. Elasticità bisogna ritrovarla anche se capita di cercare un nuovo lavoro a 50 anni. Però posso anche dirti, dalle mail, dalle lettere che riceviamo dalle nostre ascoltatrici, almeno dal punto di vista della disponibilità mentale, le donne su questo sono elasticissime. Beh, le donne, guarda, ti posso dire, le donne hanno comunque, a mio parere, e non solo nel lavoro, ma anche nel lavoro, non una, ma due o tre marce in più. Devono recuperare anche tanto, perché purtroppo questo è il paese in cui il tasso di occupazione femminile è 20 punti al di sotto del tasso di occupazione maschile, basso. Siamo al 47% contro il 65%. E in più ci sono, dati Istat, mi pare, oltre 2 milioni e 300 mila donne inattive per motivi di famiglia, cioè donne che non lavorano e non studiano più perché hanno dovuto adattarsi a crescere i figli. Ed è quello di cui cerchiamo anche, a volte, non tutte le domeniche, ma spessissimo, di parlare qui a Nessuna è Perfetta. Senti, io ti ringrazio moltissimo e ti auguro ovviamente ancora molte puntate di Ballarò. Buona domenica a Massimo Giannini, che è stato grazie qui Maria. Con noi, e a prestissimo. Grazie, grazie mille, grazie a te, grazie a tutti voi. Buona domenica. SMAU Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 e dopo i consigli Sunday Girl. Buona domenica, benvenuta a Nessuna è Perfetta, Cristina Comencini. Regista, buona domenica a voi tutti. Regista, ma anche sceneggiatrice, ma anche scrittrice e al suo attivo tantissimi film, ne cito uno solo per tutti, La bestia nel cuore, basato su un suo romanzo che è arrivato fino agli Oscar nel 2006. L'ultimo libro di Cristina Comencini è Essere vivi, pubblicato da Einaudi. E la cosa dalla quale mi piacerebbe partire è proprio quel vivi che c'è nel titolo, perché tante donne, quelle che ci scrivono ma anche quelle che ci ascoltano, magari in un momento difficile della loro vita, che può coincidere per esempio con l'età che avanza, cominciano a pensare di sentirsi meno vive. E come si fa invece a sentirsi vivi? Ma diciamo che è una sensazione che provano tutti, uomini e donne, e che è proprio il modo di vivere che abbiamo, che è quello di spesso dedicarci e fare molte cose. Questa è proprio una cosa che appartiene a tutti, e la depressione è vicina a tutto questo. Il libro in realtà ha al centro una donna, che è Caterina, che ha due vite perché è stata adottata quando aveva 6 anni. Il libro è al centro anche proprio questa doppia vita, che nel caso dell'adozione è molto evidente, che però è un pochino universale, perché tutti noi abbiamo la sensazione che l'infanzia si sia staccata da noi, come un pezzo che qualche volta neanche riconosciamo di noi stessi. E attraverso, va in Grecia, dove è successa una cosa alla madre, la madre è morta, e dunque in questo viaggio per ricostruire perché questa madre è morta, cosa è successo, va indietro col tempo anche lei in questa 6 anni che in qualche modo erano muti, cioè nella sua vita adulta lei non ritrovava pezzi di questa primissima infanzia in un'altra famiglia, e nel ricostruire quello che è accaduto alla madre con un incontro appunto con questo personaggio maschile che è il figlio poi dell'uomo con cui è morta la madre, loro due si trovano con questa strana cosa che è accaduta ai genitori a ricostruire il senso della loro vita, con accanto anche, lei mi ha fatto la domanda giusta, volta il senso di un vuoto, cioè il vuoto che può prendere tutti noi in un momento nella vita e che è vicino al sentimento della vita stessa. E loro fanno proprio questo percorso di rimpadronirsi di tutta la loro esperienza, ma anche tenendo accanto quella difficoltà a vivere, che è quasi essere morti in vita prima, certo, di morire. Certo, tutti noi corriamo il rischio, e qui a Nessuno è Perfetta ne parliamo veramente ogni domenica, di riempirci le giornate di cose. Il multitasking, che è una fregatura, noi lo sosteniamo con assoluta e incrollabile sicurezza, tuttavia è anche un modo, no, di tenere il vuoto distante, perché se fai tante cose contemporaneamente non hai il tempo di pensare. Lei, citavo prima, regista, scrittrice, si riempie la vita di tante cose da fare, e quindi è una devota del multitasking, o riesce a mettere una barriera? Diciamo che siccome ho scritto un libro che è intorno a questo fatto, sicuramente l'ho anch'io, perché non si può scrivere che di quello che si conosce, certo, no? Di quello che si ha esperienza. Dunque sì, è vero, io proprio perché ho sofferto di questa, la chiamerei una malattia, che è quella di pensare che quello che tu hai dentro come un sentimento di vuoto, il libro finisce proprio su un vuoto, quasi su una vertigine, su una scogliera della Grecia, cioè con la sensazione che tu hai fatto tanto, hai corso e corso, poi la paura è rimanere con te stesso, no? Cioè vederti, tu chi sei, cosa... Proprio così. E dunque questa cosa io l'ho vissuta, perché ho avuto e ho un'intensa vita, però quel libro mi ha aiutato, e credo che in questo senso attraversando questo dolore da un sentimento di potente vitalità, è l'idea che non devi fare nulla, è proprio alzarti la mattina, mettere il piede fuori dal letto e sei in piedi, come i bambini, no? È un romanzo antidoto alla paura del vuoto, posso sintetizzarlo così magari? Sì, attraverso questo viaggio, io ho fatto il viaggio come lo faranno i lettori, perché lo scrittore è anche questo, cioè lo fa insieme ai lettori. Io non sapevo dove mi portava, e ho la sensazione che alla fine sì, c'è questo sentimento potente, hanno questi due giovani, un uomo e una donna, che si trovano a calpestare tanti morti, come tutti noi, no? Sotto i nostri piedi c'è milioni di morti. Sì. E che però hanno il sentimento formidabile della vita, come dice un vecchio greco, vecchissimo, centenario, dice cos'è essere vivi? Dice come una canzone, tutti la sanno, tutti la sanno a memoria, però quando la canti tu ti fai venire i brividi. È molto bella questa immagine della canzone che è dentro di noi, e cambia se la canti tu o no. Senta, esatto. Cristina Comencini, tre sorelle, un padre... impegnativo, immagino, no? A cominciare dal cognome, e un marito produttore, adesso un figlio ministro. Come si combina questo caleidoscopio familiare? Nel senso che poteva anche succedere a voi, ragazze Comencini, di essere magari soffocate da un cognome importante, e invece no, avete fatto tante cose e non avete nemmeno soffocato i vostri figli, tant'è vero che suo figlio è il ministro Calenda. Come ci si riesce? Ma non lo so, credo che una cosa sia importante è l'autonomia di ognuno. Noi ci vogliamo molto bene e ci vediamo, ma tra di noi c'è solo il privato, ci sono le feste in famiglia o i pranzi o stare insieme così, tutto il resto appartiene a ognuno e c'è una totale privacy, cioè ognuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo al meglio, però non c'è, non, come dire, cerchiamo di, certo io e mio marito abbiamo fatto dei film insieme, certo, però ci siamo sempre scelti, cioè io poi li ho fatti con altri, lui fa una moltitudine di altri film. Credo che il primo sentimento sia quello della totale autonomia del lavoro dell'altro. Io in questo sono un po' inglese. L'autonomia, purezza. Quindi alle giovani ascoltatrici che magari ci stanno sentendo e che si possono legittimamente sentire insicure, lei che consiglio darebbe? Ma intanto penso che chi ha dei genitori che hanno, che sono conosciuti, che hanno già un nome, come diceva prima lei, possono avere il problema proprio di quello che diciamo prima, cioè di avere paura di fare la propria strada, no? Invece quello che nasce magari a genitori non molto conosciuti, cioè è un pioniere, e dunque vivere la propria fortuna o sfortuna, perché c'è sempre in ogni caso una fortuna e una sfortuna, sapendo che però il viaggio è personale, completamente, perché comunque tu alla fine devi dimostrare quello che vali tu, e quello che sono stati gli altri, genitori, famiglie, tutto non conta nulla, nel senso che ti può dare un aiuto all'inizio, poi in Italia poi si sa, però dopo quello che tu sei, sei. E in generale penso così, avendo avuto praticamente, ho avuto 3 figli, però diciamo ne ho cresciuti 4, penso che il sentimento che devi dare loro è che loro sono padroni della loro vita, si dà in 1000 modi, io poi non avrò fatto 1 miliardo di sbagli, però siamo imperfette, che... e lo diciamo anche nel titolo di questa trasmissione, quindi è bellissimo solo riconoscerlo. Sì, sì, io mi sento molto imperfetta e sono stata molto criticata da loro sempre, ma anche quella è un'autonomia, criticare i propri genitori e anche discutere è una cosa molto molto importante. Penso che in fondo anche papà era così, e aveva la grandissima desiderio di che noi fossimo autonome, e dunque anche proprio perché donne, in fondo ancora di più perché dovevamo poter essere libere, e questa cosa penso che bisogna darla ai figli, cercando di darla ai figli, appunto commettendo sempre un sacco di errori. L'ultima cosa che le volevo chiedere: quando Cristina Comincini decide di scrivere un libro, che cosa succede? Che si chiude e se ne va via da casa, oppure si dà delle rigide autoimposizioni? Come funziona la giornata della scrittrice Comincini? Funziona così, che fino a poco tempo fa, finché i miei figli più grandi non erano andati di casa, non avevo mai avuto uno studio io. Scrivevo sul tavolo da pranzo, e quando era l'ora di quindi pranzo... Quindi una stanza tutta per sé, no, come diceva Virginia Woolf? Tranne adesso, e ne godo molto. E scrivevo dalla mattina presto alle 8 fino a quando uscivano da scuola, 4, 4 e mezza. Dunque io mi sono adattata al fatto di avere i figli. Ma io non ho mai sentito, tranne la fatica, sì, quella fatica grande, però ho sempre pensato che fosse una grande ricchezza poter smettere di scrivere e andarli a prendere a scuola, perché è un'immersione nella realtà, fa benissimo. L'ultima, questo oltretutto è il titolo del nuovo romanzo di Cristina Comincini. Grazie per essere stata qui con noi a Nessuno è Perfetto. Grazie a voi e buona domenica. Anche a voi. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E questo, lo sapete, è il momento della domanda della settimana. Vi ricordo che potete scriverci a nessunaeperfetta@radio24.it, commentare con noi i consigli degli esperti su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta o sulla nostra pagina Facebook. Chi ci scrive questa settimana è Tiziana. Sono product manager in una multinazionale attiva nel settore farmaceutico. Lavoro nella stessa azienda da molti anni e qualche mese fa ho deciso che era giunto il momento di cambiare. Ho iniziato a guardarmi intorno e a mandare il mio CV. Per farla breve, la settimana scorsa mi hanno contattato e mi hanno proposto un colloquio in un gruppo concorrente. Potrà sembrare assurdo per una persona della mia esperienza, ma il problema è proprio questo. Nonostante anni di lavoro, mi ritrovo ad essere agitata e nervosa in vista del colloquio. Come devo comportarmi? Mi sento una ragazzina alle prime armi. Tiziana. Ecco, non so se è capitato anche a voi di fare dei colloqui di lavoro avendo alle spalle anni di esperienza, ma sono sicura che se vi è capitato, vi sarà capitato di sentirvi proprio come si sente Tiziana, una ragazzina alle prime armi. Chissà se la pensano così anche i nostri esperti di questa domenica. Maurizia Villa, Managing Director di Conferri, buona domenica. Buona domenica. E Alberto Frausin, l'amministratore delegato di Carlsberg Italia. Beh, allora, intanto, è possibile che una persona che abbia anni e anni di esperienza alle spalle e una posizione senior si senta insicura quando affronta, magari dopo tanti anni in cui non lo faceva più, un colloquio di lavoro? Comincio io, certo. Sì? Certo, è giusto che sia così, nel senso che è una cosa importante, quindi anch'io sono agitato e nervoso, come scriveva Tiziana. Il tema è prepararsi, il modo, come quando faccio una business review, il modo per rispondere a questo nervosismo è studiare l'azienda, studiare le persone che devo incontrare e quindi dedicare tempo e fatica in modo tale che quando poi arrivo lì, arrivo con la giusta preparazione per affrontare anche questo scalino che evidentemente è giusto che comporti un certo livello di nervosismo. Maurizio Villa, quando nell'analizzare il curriculum di una persona e un candidato, lei personalmente si accorge che c'è un certo nervosismo in quel candidato o in quella candidata, che cosa pensa? Ma io penso che sia un momento di tensione naturale, anzi lo valuto come un elemento positivo, perché vuol dire che c'è interesse e c'è soprattutto un grado di autocoscienza, che è quello di porsi nei confronti di una persona che non si conosce o di un progetto che si richiede di approfondire con quella giusta attenzione, che sicuramente una freddezza, un senso di sicurezza quasi innaturale non porterebbe ad attrarre neanche l'attenzione all'interno di un incontro. Secondo lei, Maurizia Villa, lo chiedo a lei perché ha selezionato nella sua carriera non so quanti manager, potenziali amministratori delegati, ci sono errori che proprio non bisogna fare, che sono fatali? Sì, secondo me ci sono degli errori di non voler vendere una persona diversa da quella che si è, quindi con le proprie, chiamiamole, fragilità sia di competenza, quindi aree di non totale eccellenza, e allo stesso tempo anche attraverso, diciamo, la rappresentazione di una personalità diversa. Io credo che per noi che facciamo questo mestiere è estremamente molto importante avere davanti a noi la totale trasparenza, no? E anche la capacità di poter entrare anche in quelle aree, ripeto, dove c'è magari non c'è proprio quella totale, direi, attesa di competenze, ma questo rende il tutto più umano e anche più diciamo facile da gestire, no? Da tutte e due le parti. Ma Alberto Frausin, se lei chiede a un candidato che vuole assumere se è in grado di svolgere una certa mansione e lui risponde no, con sincerità, lo apprezza o lo cancella immediatamente da ogni possibile assunzione? Allora, certamente innanzitutto lo apprezzo, perché il successo dell'inserimento di una persona in azienda è a due vie, cioè l'azienda che sceglie e il candidato che sceglie l'azienda. Quindi in qualche modo il fatto di essere sinceri è sempre un grande vantaggio. Poi dipende da che cosa mi risponde che non è competente di fare. Quindi ci sono aree dove evidentemente un training veloce posso colmare un gap, e su altri punti lui è molto forte, quindi entrare lo stesso. Invece ci sono magari dei punti assolutamente cruciali tale per cui il suo inserimento sarebbe un fallimento. Quindi è una domanda, la sincerità paga sempre. Su questo non c'è ombra di dubbio, perché ripeto, poi molte delle cose alla fine oggi sono colmabili anche di gap professionali. Io non ritengo, almeno nel mio mestiere, che non ci sia niente che le persone non possono imparare a fare. Vi chiedo la stessa domanda rivolta a tutte e due. Nelle settimane scorse noi abbiamo parlato di uno studio che è stato condotto all'Università di Chicago dal professor Maestripieri e da due sue allieve. Secondo questo studio, la bellezza paga anche in termini di stipendi più alti o comunque una carriera più facile. Vi risulta, Maurizia Villa e Alberto Frausin? Allora, sono contraria a questa definizione, nel senso che la bellezza è un concetto troppo articolato per essere trattato in questo modo, però sono molto consapevole e molto realistica sul tema che è l'insieme della persona, quindi quando si parla di standing vuol dire standing di tutto, no? Dal modo di presentarsi, da come si imposta una conversazione, dalla conoscenza anche della lingua italiana appropriata, dal tono della voce e anche comunque da un contesto. Come una persona si presenta è una questione di rispetto per l'istituzione, per rispetto per le persone. Quindi sicuramente un insieme aiuta. Lei ha detto assolutamente... il tono della voce. Come deve essere il tono della voce? Il tono della voce è un tono che non deve essere né troppo caricato, deve essere anche questo la rappresentazione realistica di quello che è una persona, no? Quindi non bisogna né enfatizzare come rappresentare determinate cose, né parlare in terza persona, né sempre evidenziare il proprio ego se c'è, ma essere molto rilassati, perché sono degli incontri, ma anche in un incontro di lavoro, più una persona è naturale, più viene apprezzata veramente per quello che è. Alberto Frausin, quanto conta in un aumento di stipendio o in un'assunzione l'essere un bell'uomo o una bella donna? Credo poco, francamente. Sono d'accordo con quanto ha detto Maurizio Villa, conta molto di più essere una bella persona, che non vuol dire essere, che vuol dire anche essere belli dentro, non solo belli fuori. Io, per esempio, che non faccio il lavoro di Maurizio Villa, e quindi quando seleziono un candidato necessito di vederlo, lo vedo più volte, non lo vedo una volta sola. È proprio il motivo perché lo vedo più volte, perché dopo il secondo, al terzo incontro, qualche volta faccio addirittura 4 incontri, io cerco di conoscere la persona, la sua storia, la sua vita, insomma, è questo che in qualche modo mi dà la garanzia, e anche evidentemente cerco di capire la persona, come si inserisce nel contesto dell'azienda. Questo è un po' il lavoro che cerco di fare. Quindi sull'aspetto esteriore francamente io do poco peso. Essendo ovviamente molto interessati alle assunzioni delle donne, qui a Nessuna è Perfetta, vi cito una recente ricerca riportata dal Telegraph, secondo la quale il 40% delle candidate durante le interviste di lavoro si sente rivolgere domande inopportune, se non addirittura vietate dalla legge. La stessa percentuale al maschile è al 12%. Maurizia Villa, le è capitato che qualche manager da lei selezionata è tornata da lei dopo una serie di colloqui, magari in un'azienda, riferendole di essere stata in qualche modo oggetto di attenzioni o di domande che non sono ammesse dalla legge? No, non mi è mai capitato. Mi è capitato diversamente di avere dei clienti invece che puntualizzassero delle domande personali indipendentemente dal genere, no? Maschio o femmina, ma non ho mai avuto un'esperienza mai di situazioni di questo genere. Quali domande, per esempio, personali? Ma tipo per dire se il candidato / candidata, ma direi il candidato, aveva dei figli, quanto tempo dedicasse ai figli, che tipo, ecco, queste domande, oppure se aveva un'appartenenza, diciamo, religiosa a qualche particolare, ecco, queste cose che noi però ci premuriamo di dire anticipatamente che c'è un codice, diciamo, molto chiaro e anche una legge che assolutamente impedisce, però questo purtroppo non, però direi che siamo ormai a dei proprio molto limitate queste situazioni. Alberto Frausin, nella situazione attuale italiana, lei vede dei cambiamenti rispetto alla possibilità, alla possibile, diciamo, al possibile incremento di assunzioni femminili? Direi che negli ultimi anni certamente c'è un profondo cambiamento, almeno nel settore dove lavoro io, nel largo consumo, quindi includo anche Tiziana che ha scritto nel campo farmaceutico. C'è un forte incremento di assunzioni di persone, io lavoro nel settore della birra, nella mia azienda i manager donne sono molto più dei manager uomini, pur essendo un settore che magari tradizionalmente si pensava più maschile. Quindi io vedo in questi ultimi 5-10 anni un fortissimo sviluppo, sia a livello di assunzione ma anche nei ruoli manageriali importanti, e devo dire che questo è un salto di qualità. Spesso le donne sono vincenti nei confronti degli uomini a parità di studi, a parità di età, perché sono più concrete, più determinate, quindi hanno, secondo me, una grande potenza di carriera nel futuro. Ecco, benché imperfette, come dice il titolo di questo programma, comunque possiamo coltivare ottimismo. Per tornare alla nostra ascoltatrice Tiziana e chiudere qui, Maurizia Villa, Conferni si occupa di ricerca, di servizi di consulenza, di talent manager. Che consiglio darebbe prima del colloquio a Tiziana? Abbiamo detto, mostrarsi un po' nervosi non influenza negativamente, ma per prepararsi anche psicologicamente, che consiglio le darebbe? Io mi affiderei molto, diciamo, alla storia professionale e a quello che Tiziana potrebbe all'interno di un colloquio attrarre l'interesse ovviamente del suo interlocutore, raccontando i successi ascrivibili a quello che è stato il suo percorso professionale, perché poi alla fine il tema della scelta è molto legato oggi a cercare figure che possano portare un cambiamento, portare valore aggiunto, e quindi più una persona si pone senza particolare enfasi ma in modo molto concreto a rappresentare quello che è stato il suo percorso, con la scrivibilità ovviamente di risultati ottenuti attraverso le sue competenze. Brevissimamente, che succede, Alberto Frausin, se lei parla, Tiziana cerca di rappresentare appunto i successi seguendo anche il consiglio di Maurizia Villa, e dall'altra parte c'è qualcuno che non l'ascolta? Come si fa a conquistarne l'attenzione? Perché sono minuti in cui una si gioca la possibile assunzione o meno. Provo a fare il provocatore, ma mi piacerebbe che mi raccontassi gli insuccessi, in modo tale che questo attirerebbe in me sicuramente maggiore attenzione, perché in realtà dagli insuccessi si impara spesso molto di più che dai successi. Grazie a entrambi, buona domenica Maurizia Villa e buona domenica ad Alberto Frausin. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E dopo i nostri esperti è il momento, come sapete, della nostra coach per l'ultima parte di questa puntata. E allora, benvenuta Maria Serena Ciambellotti. Il tema del dubbio, l'ansia della nostra ascoltatrice credo che sia comune a tante donne che si trovano dopo anni di lavoro a doversi presentare ancora a sostenere un colloquio, perché gli esami non finiscono mai, ma quando tocca superarne uno e magari si ha già una certa carriera, una certa esperienza alle spalle, si può essere legittimamente preoccupate. Buongiorno a tutti, buona domenica. Certo Maria, l'ansia che, di cui ci parla questa radioascoltatrice è da accogliere sicuramente come testimonianza del fatto che per lei questo obiettivo è un obiettivo importante. Quindi se il nostro corpo ci manda segnali di emozione e ansia, è a maggior ragione legato al fatto che dopo qualche anno o diversi anni nel suo ruolo come product manager ci tiene quindi a, nel cambio, far valorizzare le proprie competenze. Che consiglio le daresti? Ma innanzitutto di chiedere ai suoi colleghi in ufficio, oltre che riflettere da sola, a quelli che sono i propri punti di forza, e quindi proprio chiedere: secondo te che cosa so fare bene? Senza necessariamente dire che questo è, come dire, una strategia per prepararsi al colloquio. E sul che cosa so fare bene, collegarli ad esempi specifici. Quindi, non so, te la sei cavata molto bene quella volta con quel cliente difficile e hai articolato bene la negoziazione con lui, e scriverlo proprio, quello che quindi emerge di forza, da questo. Sì, i punti di forza che gli altri vedono in noi, ecco. gli altri vedono in noi, che quindi è un po' l'eteropercezione collegata all'autopercezione. Tendiamo ad essere molto severi con noi stessi, e quindi quando faccio questa domanda, quali sono i tuoi punti di forza, le persone sono decisamente più propense a focalizzarsi su quelli che sono le proprie aree di miglioramento. Quindi è utile il confronto con l'altro, perché ci restituisce un'immagine incoraggiante. Maria Serena, no? Ciambellotti, un piccolo trucco per far passare l'ansia. Una volta un esperto mi suggerì, quando molti anni fa appunto anch'io ho affrontato un colloquio di lavoro, mi disse: devi fare come i giapponesi, se sei in tensione curva l'alluce dentro le scarpe, perché questo ti consente di concentrare l'attenzione su un punto del corpo e tutto il resto si rilassa. A parte questo trucchetto giapponese che condivido con voi, ci sono diciamo suggerimenti proprio pratici per diluire l'ansia mentre lei si siederà davanti al suo interlocutore per la prima volta dopo tanti anni, tornerà indietro a sostenere un esame? Allora, intanto il trucco giapponese è ottimo, perché sposta il focus, e che è quello proprio di cui abbiamo bisogno quando il nostro dialogo interno ci porta in un atteggiamento che, anziché essere collaborativo, tende a sabotarci nella situazione di ansia. Quindi benissimo di spostare il focus sull'alluce o su un pensiero positivo. E poi è molto utile, ad esempio, registrarsi, e quindi immaginarsi nella situazione del colloquio a parlare di sé utilizzando un registratore a casa, e ascoltare la propria voce, e quindi proprio l'andamento, la modulazione del proprio tono, il volume, e percepire, perché anche quando ci stiamo registrando, immaginando il colloquio, trasparirà un po' di quell'ansia, e quindi avremo fatto una sorta di prova generale, e saremo in grado, riascoltandoci, di apportare quelle correzioni. Quindi se risultiamo un po' frettolose nella spiegare, parlare di noi, o se il nostro tono è un pochettino troppo basso o troppo alto, possiamo autocorreggerci. Grazie alla nostra coach anche questa domenica con noi, Maria Serena Ciambellotti. Grazie a voi che ci avete seguito, e siccome appunto gli esami possono non finire mai, questa domenica rilassatevi e fregatevene del multitasking, che lo sapete è una fregatura.